feci ricercare da chi non mi interrogava, mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi, eccomi, eccomi, a gente che non invocava il mio nome.